nessuno. Tu 10, c'è nessuno? Oh ragazzi, vi saluto. Ciao. Immagini questo drogato di Luca, questo Luca Pugioni. Luca Pugioni. E allora? Pugioni. E anch'io lo so. Io ce l'ho anche nella registrazione Luca Pugioni che l'ha. Non l'ho visto nemmeno. C'è tutto ciò. Falcone a Castroccaro si mette a cantare. Mi ho infilato dentro il computer un SSD, Luca, di lusso, ma lo sai quanto va veloce? Sì, mi ho comprato l'SSD, un 870 Evo ho comprato, di lusso veramente. Mi ho fatto il sistema operativo nuovo, non l'ho cromato, l'ho fatto da capo. Oh, come se ho fatto un SSD? Un SSD, un SSD ho comprato, me l'ho fatto arrivare e stamattina l'ho piazzato, e di lusso veramente. Che sarebbe essere? Uno di quei dischi allo stato solido. Ah, SSD, no SSD. SSD, ho detto io, non B. Ah, ce l'ho anch'io quello nel portatile, sì, vanno bene. Quale marca hai preso? Un Samsung 870 Evo ho preso. Beh, quello è buono, eh. Uno dei migliori alla fine. Molto Natalino hai pagato, quanti giga? 500. Molto l'hai pagato? Una sessantina di euro. Niente praticamente, buono, buono. Ma non te lo metti nel portatile o nel fisso? Nel fisso l'ho messo, c'ho anche il portatile, mi ho comprato anche un portatile, che quello mi serve per schiaffarci la roba radioamatoriale, capito? Ah, beh, Natali, per esempio quando sono adesso? A novembre sono. E tu sei pronto? Pronti, via! No, sei pronto a dare l'esame? Come? Ho detto, sei pronto a dare l'esame? Sì, pronto. Io sto studiando, poi si vedrà se me ne vogliono dare e se no, se non me ne danno, mi vendo tutto e si rabbiglien come di vostra mamma. Ma dovrei passare? No, io non aggiungo. Per il momento, ora come ora, magari più in là si vedrà, uno solo più vecchiotto, allora ci penserò due volte. Ora come ora non mi interessa. Ma dovete pagare ogni tanto all'anno adesso? 5 euro paghi all'anno. Voi adesso state pagando qualcosa all'anno? No, una quota associativa, 40 euro abbiamo pagato per essere iscritti all'ARIMI, perché non siamo a Radio Amatori. E poi non paghi più 40 euro? Sì, qualcosina in più penso che si paghi. Sì, ma dico, una volta solo lo paghi o sempre? No, sempre, se vuoi essere iscritto, se no non ti iscrivi e non paghi. Nessuno ti obbliga a essere iscritto all'ARIMI. Che cosa ti danno? La rivista? Sì, ti arriva la radio rivista, c'è l'antenna assicurata, insomma un sacco di cose. È buono, è quello delle antenne è buono. Ma assicurate il forte incendio? E allora? Cazzo, ho visto una Game Master che su internet, dopo che c'è stato quel ventaccio, tutta quella pioggia e così, cazzo non si capiva manco che era un'antenna, era là, il fulmine là, disintegrata Natali, l'ha fatta uscire tutta quanta a strisce, l'ha fatta, a strisce penso tutto mezzuloni. Non mi sembra vero, se succede a me, così almeno mi faccio la canna da pesca a radio amatoriale, quella ce la butto. E con che cosa te la fai con l'interno di questo? No, compro una canna da pesca e la faccio con le misure per il coso, per prendere multibanda, là, per fare tante bande. Ho capito. Ah, quella lì, secondo me, dove l'hai piazzata tu va bene, perché è riparata. Sì, va bene, sì. È che mi si girano le scatole perché prende tre bande solo quella. Fa 10, 11 e 12. Invece la Mato prendeva più bande. Ah, cosa prendeva più bande? Se andava in 10 metri bisognava guardarla. Questa invece non bisogna cogliere nulla. La cosa va di 10, 11 e 12 metri. Perché è larga di banda, come te. Quello dei 20, il dipolo, ce l'ho. Mi devo fare quello di 40 e faccio un'unica discesa e faccio 20, 40, 10, 11 e 12. E prende la Gepolo e fa 10, 15 e 20. Milomi, quel perivelle è entrato. Mi. No, non posso rimanere là che c'ho, sto facendo cose. E prende la Gepolo, se toccavi, e fa 10, 15, 20, 40 un po', però c'ha dei segnaloni allucinanti. La trasmissione no, non è che va molto bene. Ma 10, 15 e 20 è senza collatore, un treno. Ehi, lo so, ma quello per i 20 ce l'ho, mi. Tanto a me mi piacciono i 20 e i 40. Ah, anche a me lavoro in soprattutto in 10 metri. 10, 20 e 40. Anche appena 80 metri, vabbè, ce l'ho di poco. Ma no, non è che ho male a mettere. Vabbè, dai. Fatte che sono in ascolto, sto facendo cose, non posso stare in radio. Ok, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per essere entrato. Riprenda a fare quello che sta facendo, dai. Ci sentiamo alle prossime, Cla. Ehi, sono arrivati macraci nubili, sto cambiando, non mi scende la gamba. Già non sto bene oggi perché ho avuto un interventino alla Ungente. E quindi non sto bene, in più c'è le vidi bui materassi, grazie, tutti in pari. Adesso uno già cambiato, adesso cambiare l'altro, poi caricarli nel fuoristrada e li porto giù nel capannone che c'è dal cantiere. Ciao Claudio. Ciao Gianni, ciao. Ciao raga, ma sempre i travaglietici. Claudio! Beh, cagare. No, già lavorando, oddio, ieri mi sono rasato il prato, ho fatto un po' di pulizia, ho approfittato del tempo, è bello. E poi mattina avevo un appuntamento, terminavo domani, però fronte lo prenderò a un dente, uno, l'unico che ha avuto un problema, l'ho spezzato perché anche l'hanno ricostruito, ma mi fa male la gengiva, guarda, domani lo termino. E il piccione mi dice materassi, che se vuoi dire materassi, dai, mi faccio messo alle 10. Certo, uno ha già cambiato la cameretta e me ne sta facendo uscire la canna, perché sono quelli di ultima generazione, grandi, grossi, alti, cazzo, e non è male. Mi scendiamo la cameretta, ancora l'ha giuducato, io la gru. Lo so, sono un bel pesante. L'unica cosa è attorcigliarli, mettere uno spago e stringerli, come ho fatto io. No, beh, quelli vecchi sì. No, li metto interi sopra il cappotto del fuoristrada, ci riscendo giù il cantiere. E ce ne sono altri. Questi nuovi sono una cannonata, perché sono memori, quelli lattici sono favolosi. Questi sono una cannonata. Va bene, dai. Vi lascio che finisco qua e poi magari ci sentiamo più tardi, perché veramente c'ho capezzi oggi. C'ho tutto il giorno a destra e a sinistra. Le prendi, Ugarie? Ehi, ehi, sono dei video. Sa, Gianni, su TikTok qui segue questa Alessandra 79. Cosa? Su TikTok qui segue questa Alessandra 79. Guarda il video che fa. Alessandra 69 o 79? Alessandra 79. Dopo guardo. Che vecchia, ma che c'ho fuoco? Che ne so, come se sta sempre per i pizzetti della politica. E ce l'ho con quella. Avete sentito cosa ha detto la Meloni? Vabbè, Tottoni, dove c'è? Oh. Natalino, Lucrezia, Luca. Attento, Luca. Stagliola non ne abbiamo. Vabbè, Luca, Natalino, Buia. Cazzo, scomparsi di colpo siete, lasciate a vedere cose. No, veramente stavo facendo vedere una cosa a mia moglie. Stavo facendo vedere. Ma non lo so con dire che cosa. Non mi dire che cosa, perché sennò magari mi scandalizzate. Già, ti devo lasciare, devo fare cosa? Vabbè, io sono... C'è nessuno su 10? Se stai parlando non stai uscendo di là. Hola. Attenzione, canale 10. Che è avanti, Gianni? Ehi, ciao Fra, e beh, come va? Ehi, andiamo avanti, e tu? Io sono sempre così, a fine mese dovranno operare. Dovevano o devono? Devono. Quindi c'è tutto ottobre ancora? Eh sì, e anche perché si mette sempre di avvolgimento, adesso mi è arrivata la lettera dall'INPS, devo fare la visita per la pensione di vecchiaia, e nel 12, io avevo paura che mi chiamassero a fare, allora sono andato all'ospedale e ho chiesto di praticamente se c'era da operarmi subito, di rimandare, perché ho questa visita che è interessante. E invece riesci a fare tutto, dai. Sì, riesco a fare tutto, soffrirò ancora un po', cosa devo fare, però purtroppo non posso stare senza studi, se non faccio la visita è un casino, perché bisogna dimostrare, eccetera, bisogna vedere se accettano quello che scrive l'ospedale, eccetera, e quindi è meglio non correre il rischio. Dai, speriamo che vada tutto bene, dai, piano piano, senza fretta le cose nel sistema. Ah, io gli ho trovato un angelo, guarda. Avevo questo problema, me lo stavo portando avanti, sempre pensandoci come fare, come non fare. Ho pensato, se vado all'INPS per rinviare, non gli posso dire che data mi operano, quindi che data gli do. Invece all'ospedale so che l'INPS deve andare quel giorno lì, e allora sono andato all'ospedale, però mi hanno bloccato, stavo salendo su in ortopedia per parlare con il dottore, mi hanno bloccato questa infermiera, ho detto scusa. scusi, dove sta andando? Ha detto in ortopedia. No, non può salire al reparto. Mi dica che problema c'ha, te l'ho spiegato. E mi fa, ci penso io. Ha preso, ha chiamato in ortopedia, ha fatto tutto quanto e mi ha detto, lei non si preoccupi, sino a fine mese tanto non la chiamo. E faccia quello che deve fare, tranquillo. Gli ho detto, lei mi ha tolto un peso dallo stomaco. Hai visto, a volte la fortuna neanche quando non la cerchi ti arriva. Gentilissima, guarda, mi ha accompagnato nelle scale, mi ha preso a braccetto, mi ha fatto scendere piano piano. Ce la fa? No, le tre ce la faccio, no, no, aspetti, gli do una mano io. Non è gentile, guarda, che all'ospedale solitamente va nella grande riempitare, sì. Guarda, dove c'era mia madre lì, in ortopedia, al sesto piano. Al 99% sono delle persone proprio veramente squisite. Infatti ho portato un paio di pacchi di roba da mangiare, alla fine l'hanno dimessa, pizzette, roba così, tramezzini. Sono rimaste veramente contente, ma ripeto, in primis eravamo contenti noi. Sì, quelle lì, quando c'erano le suore, la nostra, adesso ci sono tutte ragazze giovani di Roma, ce ne sono tutte le parti provengono. C'era una romana che aveva una mano leggerissima quando mi faceva l'iniezione l'altra volta che mi hanno operato. E non sentivo nulla, capito? C'era una ragazza che ogni volta mi faceva vedere le stelle. È proprio la mano, capito? Tante volte. Questa qua veniva ogni mattina per vedere come stavo, capito? Ogni mattina veniva a trovarmi, era gentilissima lo stesso. No, la verità, nulla da dire. Le strutture sono ancora, figurati, io sono stato ricoverato 40 anni fa lì, forse anche di più. Io avevo il numero 15, il letto. Mia madre aveva quest'anno il numero 10. Ma ci sono ancora quelle, come si chiamano, le abbajur, quelle appese al muro in alto. Ci sono ancora le stesse, tutte vecchie, arrugginite, però come reparto, la verità, non mi posso lamentare. Quando finivo la visita, le visite adesso sono regolamentate, perché in base alle persone che ci sono dentro, non è che fa entrare tutti, quindi fa entrare due, massimo tre alla volta, quindi se ci sono, non so, tre persone per vedere tomare, fanno i turni, 20 minuti l'uno e via, dai, cercano di accontentare un po' tutti. E poi quando finivo andavo a parlare con i medici, gentilissimi, ti spiegavano bene, no, la verità, no, tanto di cappello, mi hanno sorpreso positivamente. E poi c'è anche un caso, anche lui era 15 lei. Anche lui è il sesto piano numero 15. Quindi come entrare lì a sinistra, letto centrale. Hai visto, abbiamo avuto lo stesso letto. Adesso ci sono dei letti moderni, i nostri erano, per carità, mamma mia. No, io l'ho avuto moderno, io non è tanti anni che mi sono operato, sarà 2 anni e mezzo così. E io ho avuto quello che al telecomando, per alzarlo, e poi mettere diverse posizioni, spostarti, fare, capito? C'ha il telecomando, c'ha un joystick e tu manovri come ti vuoi mettere, lo metti, capito? Sì, sì, ho visto, adesso c'hai sia il telecomando sia sulle sponde laterali, sulle, diciamo, le protezioni laterali, anche lì c'hai i telecomandi, sia interno che esterno alla barriera, alla protezione. Infatti a volte glielo regolavo io. No, adesso è tutto un altro mondo, dai, almeno quello. Sì, ma le barre sguarde le mettono la gente tipo anziana, oppure qualcuno è pericoloso che vuole scappare. Mio padre l'aveva saltato, lo sai, che lui si è spaccato il sopracciglio. Voleva andare in bagno perché lui non sopportava che gli mettesse il pannolino e ha saltato la sbarra. Caspita. Gli anziani, sì, da mia madre c'erano, sì, dal 99% sono quasi tutti anziani lì. C'era anche una ragazza giovane che poi è andata via. Lì si era aspettato, mi sa, una caviglia. Sennò gli altri erano quasi tutti anziani. E poi adesso non è fatto, maschi e femmine sono tutti insieme, lo sa? Beh, nelle camere no, però diciamo l'ala di sinistra, come siamo entri dalla tromba delle scale, dai, è adibita a un unico reparto. All'inizio ci sono gli uomini, poi verso la fine sono tutte donne. Sì, sì, è così, ma prima praticamente dalla parte destra c'erano le donne, dalla parte sinistra i maschi, capito? Ed era così prima, infatti i dottori si spostavano da un reparto all'altro. di niente. Adesso invece probabilmente ci sono meno pazienti, non lo so, prima non bastavano i letti, allora hanno fatto due reparti di lì, dall'altra parte adesso non so cosa abbiano fatto, non me lo ricordo. Ma io invece pensavo che, ho letto che stavano facendo dei lavori di ristrutturazione, quindi ho pensato che nel frattempo li hanno raggruppati in un'unica ala, capito, solo per quello magari. Ma non lo so, sarei. Comunque, io quando c'ero io c'era dottor Patta, adesso dottor Patta non c'è più, l'hanno trasferito a Ozzieri, mi pare che sia vice primario. Neanche Ozzieri sono bravi. Lì c'è Zanetti, Zirato, non mi ricordo il cognome. Zirano è al policlinico. E in più al policlinico c'è l'equipe che opera con robot, che viene da fuori. No, mio socio l'hanno operato lì a Ossiri e mi ricordo un cognome con la Z, Zanetti, Zirano, Zirato, una cosa del genere. Adesso direi una fesseria. Mi ricordo solo l'iniziale. Non lo so perché io a Ossiri non sono mai andato, però so che hanno trasferito qualcuno a Ossiri, dei medici che c'erano qua. E vabbè, mo io li ho conosciuti tutti, Rossi, Chiarolini, tutti li ho conosciuti perché ci sono stato mille volte con il reparto. Sì, quando sono stato operato io lo stesso, c'è Chiarolini e dottor Rossi, Guido Rossi mi sa. Sì. E adesso non c'è più nessuno, ci sono tutti giovani, c'è Solinas, quello che mi ha operato, la chip che mi ha operato c'era anche questo Solinas, che lo conosco. Adesso non so chi l'abbia operato, comunque sono tutti giovani, come dici tu. Era un tipo con gli occhi chiari, gli occhi azzurri. Vedi, almeno le donne ci fanno gli occhi. Sì, in tutti i sensi. No? E allora? Vabbè, oramai è un'abitudine per me, capito? È una cosa normale se lo operati, non ho più paura di niente. Insomma, non è bello entrare in ospedale, però... se non ne puoi fare a meno purtroppo, però ripeto, l'importante è che mia madre era contenta, serena e tutto, dai, adesso l'importante è rimetterla in piedi subito, più in fretta possibile. Sai cosa succede agli anziani quando li ricoverano? Perdono l'orientamento quando li ricoverano in ospedale, mio padre gli era successo e mi ha detto di non preoccuparci perché perdono l'orientamento, non capiscono dove sono. Ma all'interno dell'ospedale o fuori? All'interno dell'ospedale, perdono l'orientamento, capito? Pensano di essere a casa, eccetera. Poi quando ritorno a casa è tutto normale. No, quelli, no, mia madre è tranquilla, non è cosciente. No, pensavo che non riuscissero a riorientarsi all'interno dell'ospedale, cioè sapere la tua posizione, dai. Vabbè, dai. Interessante che è stato fatto, tutto è andato bene. Adesso dobbiamo aspettare. Adesso la fisioterapista ha controllato anche l'altra gamba, ha detto, ma insomma non è che sia un granché anche l'altra, ha detto no, sicuramente no, non tornerà a correre, l'importante è che si rimetta in piedi e basta, perché anche prima camminava con quei pazienti piccolini, insomma è una persona che ha quasi 90 anni. Dai. Ah beh certo, ma ti stavo dicendo, ma il fisioterapista viene a casa? Sì, l'abbiamo diciamo trovato un esterno, dai. Che se aspetti qua all'ospedale, ci passano, mi hanno detto, minimo un mese e mezzo, due. E allora l'avevano mandato così lo stesso, però c'era il coronavirus e io avevo cominciato la ginnastica. Infatti quando è venuto il fisioterapista mi ha detto che sono stato molto bravo, perché sennò non avrebbe trovato quella gamba di lei. No, questa ce la paghiamo noi a parte, capito? Ripeto, non possiamo aspettare un mese e mezzo, sennò... I muscoli già sono quelli che sono, ci atrofizzano di brutto. Ma quello di carica state prendendo, quello che c'è a carica? No, ma infatti l'altro giorno me l'hai accennato, non è di Sassari, una ragazza di Sassari, una ragazza insomma, non è giovanissima. Vabbè, e quindi quella lì a pagamento? Sì, questa la stiamo pagando, mi si è messa su una trentina di euro a seduta, da un'oretta, dai. Ti arrivato? Come? Già basta, ho detto, 30 euro. Qualcuno anche 50 chiede, guarda, questa è tra le più oneste. Sì, è vero. La mia amica mi ha pagato 40 euro, mi pare. No, io l'ho fatto gratis. malati, se me l'hanno mandato all'ospedale. Però ti ripeto, io ho continuato a fare la fisioterapia che mi facevano fare all'ospedale, poi la fisioterapia naturalmente va avanti, però io conoscevo solo quelle di Mose e quelle facevo, però mi sono servite molto, perché già avevo la gamba quando è venuta e cavalli è tranquillo, già quasi può stare in piedi tranquillo, e sto in piedi, però mi faceva camminare sulla striscia delle fughe delle mattonelle, dovevo camminare dritto, cercare di tenermi in equilibrio, mi faceva alzare la gamba, mi faceva coricare il letto, me la piegava lui piano piano secondo mi faceva male. Sì, anche questa fa così, all'inizio sono i primi movimenti per sciogliere un po' l'articolazione, per vedere i limiti, dai. Poi un po' la fa sedere, poi un po' la mette in piedi per riuscire un po' a fare qualche piccolo passetto, ma ripeto, ancora stai iniziando, però già in piedi già rimane equilibrio, anche senza aiuto, però ancora a camminare, sollevarla ancora li pesa, ancora lì. Sicuramente ancora la ferita è fresca. Quando è stata ricoverata? Ma quando è? Allora, è stata ricoverata di sabato, no, di venerdì, e lunedì è stata operata. E poi l'hanno tenuta lì meno di 10 giorni forse, dai, 8-9 giorni se non vorrei dire una fesseria. Mi sembra che faccia lì, 2 settimane è oggi operata. Ma io c'ero stato 12 giorni all'ospedale, 12 giorni. Ma pensavo che io ho letto su internet l'intervento che faccio io, incontinente, in 5 giorni ti mandano a casa. In 5 giorni. Invece qua mi avevano tenuto 12 giorni, adesso qua al policlinico non lo so perché ho cambiato ospedale, non ci sono più andato all'ospedale civile, perché sono un po' trascurati, capito? Non ti puliscono, solo il campanello, arrivava la cosa e ti trovava sporco, cioè è un casino. No, guarda, per quello che ho visto io in questi giorni, c'è talmente tanto personale che sono veramente trattati bene. Anche qua mia madre gli ha fatto i complimenti perché mi hanno veramente trattato bene. Beh, magari erano persone diverse, perché c'era uno vicino a me che si faceva sempre addosso, ma 4-5 volte in una mattina, una volta dopo l'altra, e questa infermiera si è incazzata e se l'ho cambiato già 5 volte. Io non posso stare sempre da lì, ci sono tanti pazienti, ho capito, però a me non mi è mai successo, mi sta succedendo qua. È normale perché ti danno i medicinali per farti andare di corpo, capito? Quindi succede questo. Eh sì, perché gente succede il contrario, no? All'inizio tendi a trattenere, poi ti intasi e devi chiamare l'autospurgo. All'ospedale qui è brutto perché magari la posizione, poi uno che non è abituato a catetere, pannolino, mamma mia. No, e poi c'è la privacy, ti manca la privacy proprio del tuo bagno. Sì, tu pensa che a me mi lavavano delle infermiere giovanissime, capito? Cioè, io non è che sia vergognoso di queste cose, però un po' umiliato mi sentivo, capito? Non, perché è abituato a fare tu le cose, ti senti un po' così, capito? No, infatti no, non è bello. Mi ricordo quando mi avevano rasato per prima di entrare in operatorio, lo stesso, non va bene. Ma sono cose un po' antipatiche. Io l'altro giorno, per dire, sono andato a fare la risonanza magnetica, no? Mi ha fatto spogliare, però io non mi posso più inchinare. Alla fine mi ha detto vai nello sbarra, nello spogliatoio si può mettere tutto qua. E io non ce la facevo a mettermi le calze, le scarpe, mi aiuta sempre la mia compagna perché non ce la faccio inchinare. Rimasta questa infermiera, ha detto cosa c'è signore, mi dica, non abbia timore, non si preoccupi, l'aiuto io, e io mi scusi, ma non si preoccupi, mi ha detto, non abbia nessun problema, sono qui per questo. Beh, loro non ne vedono tutti i giorni, ormai non ci fanno più neanche caso, guarda. Lo so, ma tu abituato a fare tutto l'assomo, capito? Ti senti una merda, mi scusando la frase, che ti debbano vestire gli occhi come ti senti un bambino. Ripeto, non sono cose belle, però purtroppo ci dobbiamo adeguare. Io non mi posso inchinare, non mi posso più inchinare, dopo quando mi operano non posso fare movimenti bruschi, ci sono tutti i movimenti da fare per girarti, devi fare i passetti attorno, non puoi se no ti puoi usare la gamba. Insomma, siamo troppo delicati, siamo già. Lo so, sembriamo fatti di ferro, però a me quando me lo dicevano gli autisti, piano, vai piano, che da voi non bisogna di domandare un conto. La baita che a me me l'ha già domandato, sono tutto a dolori, mi dicevano. E mi ricordo sempre quello che mi dicevano, capito? E così veramente, perché io prendevo il pacchetto a 3-3 per fare il primo, capito? Caricavo, facevo, eh? E questo è reso conto. Sì, sì, no, anch'io sulla mia pelle me ne sto accorgendo, tutte le, diciamo, proprio le cazzate fatte da giovane, alla fine poi le stiamo pagando adesso, vertebre schiacciate, ernie, braccia, articolazioni, andare in moto con i capelli bagnati, mia madre, cioè, vedrai un domani, infatti c'è così, cervicale, galoppante. Mi ha tolto le parole da bocca, ma mi diceva non uscire con i capelli bagnati, a me mi piaceva perché ci facevano tutti quanti a buco le cose, no? E li lasciavo bagnati, uscivo con i capelli bagnati, no, non uscire con i capelli bagnati che poi ti fa male, ti fa venire l'artrosi, questo e quell'altro. Io grazie a Dio l'artrosi cervicale è poco, più che altro ho sofferto di labirintite, non so se tu sai cos'è. Sì, sì, anche io un po' ogni tanto già mi si risveglia. Però qualcosa si può risolvere. Allora, una sera dopo pranzo ero con Riccardo e mia moglie è andata a prendere la bambina a scuola. Quando è tornata ha trovato un'ambulanza, perché io mi sono alzato e vedevo tutto che girava, ma era un mondo pazzesco, sembrava ubriaco, capito? Mi girava tutto attorno. Ho fatto il tempo a prendere, meno male che c'era il cordless, ho preso il cordless e ho chiamato l'ambulanza. E sono mia moglie, quando è tornata la bambina, mi ha trovato sulla barella. Fatto sta che mi hanno portato all'ospedale, mi hanno fatto flebo, poi mi hanno fatto le manovre, mi hanno fatto sedere su questo letto e presente la pallina a ping pong, si passava dal dottore di corpo, si passavano a me. Prima uno lanciava e poi l'altro lo ripeteva. Sino a quando ho trovato un po' la postura giusta, perché noi abbiamo del gel nelle orecchie che ci tiene in equilibrio, sembra una fesseria, ma è così, secondo la postura che tu usi a letto può succedere questo. Allora mi hanno fatto camminare sempre sulle righe delle mattonelle per vedere se camminavo dritto, e quando mi hanno visto un po' così, quando mi hanno lasciato la coccanola, mi hanno fatto aspettare pure per un bel po'. Sì, sì, praticamente ti, con quelle manovre ti hanno riposizionato quel liquido che dici tu, il gel, nella sua, diciamo, conca dove dovrebbe stare per avere l'equilibrio al 100%, capito? Quando si sposta da quell'ampolla allora inizia ad andare in giro per i tubi semicircolari e lì ti crea perdite di equilibrio e cose varie, labirintiti. Io quella manovra non l'ho mai fatta, però vorrei farla anch'io ora lì. Come me l'hanno fatta pronto soccorso, non è che l'ho fatta fare io, me l'hanno fatta quando mi hanno portato pronto soccorso, mi ha detto che di non preoccuparmi, che era solo un po' di labirintite e che avrei, ma sono stato mesi e mesi sempre con questa cosa, che quando mi alzavo dovevo alzarmi piano perché se no vedo tutto girare. Lo so, anche quando chiudi gli occhi continua a girare, perché una volta stavo per uscire, alla fine ho rinunciato, mi sono disteso sul divano e ho detto a mia moglie vai tu perché io non ce la faccio. Però dopo un po' mi è passata da sola, mi ho aspettato un po', mi è passata. Sì, ma a me anche dopo che mi hanno portato il soccorso ho continuato, mi è durata almeno un mese e mezzo, capito? Questa storia qui, che quando mi alzavo dal letto la mattina devo fare piano, perché se no, come secondo come mi alzavo, cominciava questo capogiro, vedevo tutto girare attorno. Una fesseria sembra, noi siamo fatti come macchine, una fesseria sembra, un liquido che si sposta e ti crea questo problema. Siamo delle macchine, finché funziona tutto bene, delle macchine perfette, ma a volte può capitare qualche regolatina ci vuole, al carburatore, alle puntine. e adesso all'iniettore il carburatore non ve ne so più. Ormai qualche macchina vecchia c'è, basta. Il carburatore c'ha sempre il suo fascino, l'aspirazione, il rumore dei collettori di aspirazione, non ce n'è. Io alla 500 c'avevo con la trombetta, facevo bam bam. Quelli sì che erano motori, oggi sì, è un'altra cosa, oggi fanno rumore di scarico e basta. Hanno delle valvole per aprire lo scarico diretto. Ce l'ha un Audi R, non mi ricordo che modello è. Elettrica, la valvola, tu come schiacci il tasto cambia lo scarico, il rumore diventa bestiale. Io la prima macchina che ho avuto è la 595 Giannini, c'aveva tutto diverso dentro, volantino, contagiri, tutto quanto, tutto diverso dalla 500 normale. E il cambio basso c'aveva, la leva del cambio Abarth, era tutta quanta. Poi un giorno sono andato da un elettrauto in viale Porto Torres, che si doveva scendere giù per andare a questo elettrauto, perché doveva cambiarmi la carrozza dello spinzero, i fili della carrozza, perché mi c'erano rovinati andando al ghero, mi si è fermata la macchina e non partiva più. Meno male che avevo dei cambi, io gli ho fatto un attacco volante e sono arrivato sino a Sassari. Però l'indomani sono andato per farmi mettere i cambi nuovi, no? Che si erano asciutti, e adesso si sa se non corto che cosa era, ma gli asciutti. E da questo elettrauto c'era la fotografia della mia macchina quando correva. Lui mi ha detto: ma questa macchina la parte elettrica gliela facevo io, correva questa macchina, c'è stata la piccata cosa eccetera, ed era tutta con le tettuccio a scacchi e con la striscia, sai come si usavano da una parte. Però poi quando l'ho comprata io era normale, c'aveva il tettuccio nero e non la striscia non ce l'avevo. Ho capito. Ascolta, questo è l'auto, va bene, in via Porto Torres. Allora, c'era una discesa dove c'è Bile Silvestri, in quella zona lì era. C'era una discesa, si scendeva giù e c'era l'elettrato. Ah, uscita di Sassari, là, dopo il rifornitore, dopo l'ultimo rifornitore a destra. Sì, però adesso non so se esista più, No, no, no, io mi ricordo questi che ci sono qui adesso, come si chiama, Corredo, come si chiama, dove c'è qui a sinistra, l'elettrato. Io mi servo sempre qua vicino a casa, da Luigi, proprio Luigi Mudano. Ma io quando c'avevo la Volkswagen autorizzato era lui, era qui, Corvetto. Carrozzeria c'era la Capra, no, per carità, dai. Ma questi fusi, in questi fusi come sempre andarci con il finito, ma che ti potrei fare un paio di là. Mi è successo, mi hanno chiesto un prezzo, poi sono andato da un meccanico normale per lo stesso lavoro e l'ho preso 200 euro in mezzo. Ma non è garanzia, per forza devi portarla lì da loro, sennò perdi la garanzia, capito? Sì, quello, quando avevo la garanzia la macchina mia l'ho portata alla Fiat, poi possono mandarmi le lettere che vogliono, io c'ho il mio meccanico di fiducia, una persona veramente squisita, fa i corsi, conosce le macchine, è una persona giovane, conosce tutte le macchine nuove, capito? Ti fa il test, secondo che guasto c'hanno tutto quanto, c'hanno un terminale che attacca alla macchina e riesce a trovare il guasto subito. Ormai tutte le macchine hanno la presa sotto lo sterzo in genere, o a fianco, e ti fa la diagnosi completa, ti vede tutti gli errori, te li cancella dopo. Ormai sono tutte così. Sì, l'altro giorno, l'altra notte, siamo andati al circo a Porto Torres con mio figlio. Sai io che ce l'andiamo al circo così facciamo una sera insieme. Siamo andati con mio figlio e mi si è accesa la spia e gli ho detto: ma non so che cos'è questa spia. E praticamente è andato a vedere su internet e questa spia indica praticamente la pressione pneumatico che si è abbassata di colpo. Io ho detto: cavolo Marco, proprio adesso che stavo andando al circo si è abbassata la ruota a stare a cambiarla al buio, adesso tutto qua. Vabbè, continuiamo, andiamo al circo, tocco la ruota, vede la cuffia, ho detto che strano. Beh, fatto stavo andando al circo, già mi aspettavo che quando uscivo dovevo cambiarmi la ruota, magari a mezzanotte, quando finiva lo spettacolo. Invece sono andato, la ruota era cuffia, e domani sono andato dal gommista e me l'ha controllata, e metto questa ruota non c'ha nulla, guardi, c'ha la pressione a 2,4, quindi lui l'ha fatta a 2,5, ma prima dell'estate va benissimo, sono tutte a 2,4, adesso le gonfiamo tutte, le facciamo tutte a 2,5, e è successo che magari ha trovato qualche fossa, ha toccato il sensore, e come ha toccato, come ha abbassato la ruota, ha segnalato che era bassa, capito? Eh beh, non è più da elettronica. Sicuramente ha fatto una lettura che non era reale. Può essere anche il difetto del sensore, ce ne sono i difetti elettronici. No, lui praticamente, no, non me l'ha mai fatto. Lui praticamente l'ha cancellato, da quando l'ha cancellato ha gonfiato le gomme, non me l'ha più fatto. Allora male. Faccio allarme, anche, a volte anche nella piccola che ho là, nella smart, a volte mi dice avaria motore qua, qui, a volte c'è un po' di umidità, perché in genere lo fa quando, dopo che piove tanto. Poi dopo un po' si asciuga, scompare l'errore, si spegne la spiaggia, ma tutto da solo fa, Sicuramente nello storico rimane la centralina, però nella macchina dopo un po' si spegne, la macchina non c'è niente. Sì, infatti. Io infatti sono un po' contrario a queste elettriche di macchina, perché la roba elettrica con l'umidità si sa come fanno. E poi dovrebbero inventare, secondo me, qualche macchina che magari che abbia una dinamo, qualcosa del genere, che carichi la batteria, perché questa storia di attaccarla dove nelle colonnine e cose, ci sono dove ci sono, e vabbè, noi il negozio ce l'avevamo sotto le garage, e i clienti quando venivano a fare la spesa l'attaccavano gratuitamente, ma adesso non lo so se lo faccia più gratis con l'aumento della luce, gratuitamente si facevano la spesa, tornavano e si trovavano la macchina a casa. Sì, il mio collega aveva preso la Twingo, mi sembra, che proprio full elettrica, tutta elettrica, il giorno che l'ha ritirata le si è fermata, quindi domani era con un'altra macchina di servizio, di cortesia, là. Adesso ho visto che già stanno bene. Cioè, vai di giù. Non li ha assunti. Era un po' deluso, poverino. Era così contento di questa macchina elettrica. No, comunque ma sarà il futuro, perché a parte che hanno una coppia allucinante, un'accelerazione bestiale, se ne fregano dei motori termici a benzina o diesel. Ma con la storia dell'aumento dell'energia elettrica non penso che si faccia l'affare prendere una macchina elettrica. Quello è anche, capito? Hanno fatto vedere di questa signora poveraccia che prendeva la pensione di 400 euro al mese, e sono arrivate due bollette che sommate erano 700, mi pare una cosa del genere. Quindi ho detto, come fa questa donna a pagarsi la roba se prende 400 euro al mese? Sì, anche la mia è arrivata. Nel giro di 2-3 anni praticamente è triplicata la mia bolletta. La parità di consumi, credo, certo, almeno i miei consumi sono sempre quelli. Allora, per esempio, in campagna dai miei siamo passati a Enel Energia, ho fatto i conti comunque in base a quello che hanno speso, togliendo anche il canone, allora gli è venuto 38, quasi 39 centesimi a kilowatt. Io sono ancora con il vecchio fornitore di Enel distribuzione, così chiama. Mi è venuto a 40 centesimi, quindi non c'è tutta questa differenza, un centesimo e 2,2 di differenza a kilowatt. No, io ho avuto sempre Enel, non l'ho mai cambiato, perché sono del parere che la casa madre è sempre la migliore, non c'è nulla da fare. E niente, però anche a me è così, mi hanno fatta così. Io sono arrivato a pagare 170, una cosa del genere, l'ultimo mese che l'ho pagata, l'ultimo che mi è arrivato. Io invece sono arrivato a 2,90, tu 18 euro di canone, sono sui 2,70 Allora, consumi un bel allora. Prima pagavo su 100, mi ricordo, quando prima degli aumenti, dai, era addirittura sotto i 100. Allora, io anche prima degli aumenti sono stato sempre attento dei consumi. Attacco la lavatrice dopo le 8, oppure quando nei giorni festivi, che paghi di meno la luce. Insomma, tutti questi accorgimenti. Invece la mia compagna c'ha l'abitudine di passare da una camera all'altra, lasciare tutte le luci accese. Infatti gli ho detto più di una volta, infatti, se non ci sei spegnila, perché la luce adesso costa. Quello c'erano un po' tutte le donne, anche a casa così, ci vuole uno presto a spegnere le luci. Sempre interessante accendono le luci e le lasciano accese. E poi tu chiedi chi c'è qua? Allora, ci sono io, è là che c'è. Insomma, non puoi essere onnipresente. Sono tutte così, vai tranquillo. No, anche io ci sto attento, perlomeno. Anche la tua figlia metto la partenza ritardata, ci accende di notte alle 2, 3 di notte, no? Cerchiamo anche noi, insomma, di usarla con intelligenza, però è cara. Tu cerchi di risparmiare qualcosa, è sempre un bel, capito? Non può durare una cosa del genere. Oh, ci vogliono portare a diventare dei poveracci, capito? Vogliono arrivare a questo, aumenti di della roba alimentare, aumenti di luce, il gas è 8,90 euro l'ultima volta che l'ho messo, capito? Comunque, cosa sto dicendo? 80 euro centesimi. Sì, avevo capito. No, io non ho più macchina a gas, purtroppo, perché mi sono sempre trovato bene con il gas, ho sempre risparmiato. Adesso ne ho tre, due, una benzina piccolina, la 1000, e due sono a gasolio. Ma io a gas l'ho preso perché con la convinzione che continuasse a lavorare, invece poi ho avuto dei problemi e ho finito prima di lavorare, mi aspettavo andarmene 5 anni prima, quindi l'ho fatto. E niente. E quindi la macchina è sempre a gas, però la uso in città e la uso per le cose necessarie, fare la spesa, andarcela al mare, queste cose qua, le solite cose, faccio un giro, ma non più di tanto, e girare a moto, prima quando ero ragazzo mi giravo tutta la Sardegna, adesso che posso farlo, invece non ho più voglia di fare un cazzo. Se non ti accompagna poi la salute è un casino. Non mi dire, abbiamo fatto una bella escursione, siamo scesi fino a Neonelli, non so se sai dove sia. Dove? Neonelli, paese vicino a Nuoro, però credo che sia a parte di Auristano, mi sa. Ho capito. Ma cosa c'era? Qualche sagra? Sì, c'era una bella festa, si mangiava, si beveva, poi c'era musica in giro, gente che nelle case, cioè, tutte le case erano aperte, ti insegnavano a fare la fregula, chi stava vendemmiando, ti insegnavano le tecniche per vendemmiare, tutto in diretta, proprio dal vivo, bello, una bella storia, un bel paesetto. Non c'ero mai stato lì a Neonelli, ed era il paese di uno zio che adesso non c'è più. E ho trovato addirittura il figlio di un fratello, piccolo al mondo, che poi abita in zona di Punti, credo. Ho capito. Era cortesa aperta, quello stanno facendo cortesa aperta. Io c'era un anno che andavo, c'era uno che passava col pulmino, ti prendeva e andavamo lì, ce li facevamo tutti, capito? Pagare una cazzata, mangiarvi panini con porcetto, tutte queste cose qua particolari, si comprava sempre formaggi, salsicce, questa roba qui che siamo ben buoni. Sì, infatti ieri ci abbiamo fatto la scorta, ieri ci hanno dato le due salsicce, in omaggio c'era la purpuzza, infatti oggi ci abbiamo fatto le pernette con la purpuzza fresca. E poi cosa abbiamo preso? Un po' di formaggio, un pezzo di prosciutto magro, proprio buonissimo. Spero che sia così anche quello che abbiamo comprato, ma sicuramente si vede che è uguale. che lì ce l'ha fatto assaggiare, capito? Ti fanno assaggiare tutto. E poi c'erano i piatti offerti, no, offerti a pagamento della Prolocco, che costava 15 euro e c'era un bel po' di fregola al sugo, poi c'era la carne di pecora, ma ti guardi, ne mettevano una montagna, il pane fatto da loro, pane fatto in casa, vino quanto ne volevi, acqua quanto ne volevi, e poi le frittelle le abbiamo prese a parte invece. Io sono andato e c'erano gnocchetti col sugo di pecora, asparagi, arrosto, tutte queste belle cose, tutta roba buona, che però di regolato, perché se ti rimani, cazzo, quegli gnocchetti erano così buoni. No, io era tutto buono, la pecora, guarda, è un po' pesante da digerire, però ieri sera sono rientrato, non ho toccato nulla, non ho cenato, ho bevuto e basta, acqua, oltretutto. Poi c'era un paio di stand dove c'era la porchetta, c'era stata un paio di metri di lunghezza, c'era sempre la pecora arrosto, la vitella, un po' di tutto, dai. E quelli però non facevano parte della Prolocco, erano dei privati, dai. Sì, ho capito, e anche io ne ho trovato, fanno il Barisardi, quando vai a vedere le cantine, tutte queste cose qua, sì. E sono andato anche anni fa, e andavamo io con mia moglie, e andavamo, facevamo questi viaggi qua, senza prendere macchine né nulla, questo ci riportava a casa, tranquilli, pagate una fesserina. Io insomma, soffro, se non guido io un po' soffro il viaggio, quindi... specialmente se ci sono a fare molte curve, che poi ieri mi siamo passati, sono passato da Paoli Latte, ho allungato un po', però ho fatto pochissime curve, abbiamo passato la riga del Tirso lì sopra il fiume, sopra il lago, dai. Bello, sempre uno spettacolo anche quello da vedere. Sì, sono passato anch'io lì. Cosa ti stavo dicendo? Non mi ricordo più. Vabbè, comunque siamo andati anche a Gusana un anno, a Gusana, sul lago di Gusana, poi lì a Gusana ci sono questi fratelli Mussu, che praticamente erano di Ollolai e prima ci avevano, non so se tu ti ricordi, dove c'è il banco di Sardegna per andare in piazza d'Italia lì, cos'è, via Cagliari quella lì. Praticamente lì c'era il banco di Sardegna e c'era a fianco un ristorante, e quello lì era di questi due fratelli di fratelli Mussu, e li avevo conosciuti perché li andavo sempre a fare i panini, perché facevano anche i panini di mutiti. Io ogni sera andavo con la greffa mia, ci facevano tutti i panini con il giuster, ketchup e tabasco, e niente, siamo andati a trovarli. Noi come ci hanno trattato, ci hanno riconosciuto, ci hanno aperto, praticamente hanno venuto alla banca quel locale, no? E poi lì a Gusana ci hanno aperto il ristorante lì a Gusana, e fanno pesce arrosto, ma fatto con il carbone, con la roba veramente buona a caso, ci hanno trattato veramente bene. No, lì si sta bene. Allora, io ho mangiato, ho dormito anche, non so se in quell'albergo lì, sia Altaloro, che è sempre lì vicino a Gusana, che è proprio il lago di Gusana, quegli alberghi lì, proprio sul lago. Ho anche pescato, perché la mattina me ne andavo a pescare lì, al fiume. No, bei posti. La ricetta di pesca là. Avevo, adesso sono già forse 10 anni che non la rinnovo. Ma perché? Perché prima c'eravamo in via Sentino, c'era il tipo che ti faceva tutto, adesso per la mandronia di fare tutto online, me ne sto fregando, quindi non sto più andando a pescare in acqua dolce, perlomeno a volte butto qualche filaccione quando lavoro in zona di acque dolci, però non vado proprio più a pescare, ormai sto andando al mare. Anch'io andavo al mare, adesso con questa gamba così, ho preso a settembre, me ne vado a farmi qualche lancio, invece andavo anche nella zona di Tintino, capito, questo periodo, si prende bene. Avevo preso un pesce una volta, facendo una cattata, l'ho lanciata a fondo, poi mi stavano annoiando e ho cominciato a andare come si fa con l'artificiale, no? Ti davo gli strappetti, così hai giubilato di ambescio, di quelli da zuppa, di uno scorfano, ma grande però, c'era stato un chilo e mezzo. E io così non l'ho presa, però sentivo che morsicava il piombo quando recuperavo lì al ghiero, sì. E cos'era? Erano le spigole che si attaccavano, si buttavano al piombo. Allora sono stato assassino, ho preso due artificiali, uno un po' caruccio, l'altro più a buon prezzo. Beh, quello che costava di meno, ogni lancio ne prendevo una. Sì, io li prendevo caccia e pesca lì, ai punti. Io c'ero artificiali, facevo pesca sia alle seppie, calamari, questa roba qua. E ti dirò che sono buoni. Io prendevo quelle che costavano di meno, non andavo sugli Olympus o roba del genere. No, io li avevo presi da Decathlon, mi sembra che avessi appena aperto, era una... E ho preso un paio di artificiali, ho detto voglio provare. Beh, a volte capitava che si incrociava perché lì c'erano dei segnali delle boe, no? Però cosa facevo? L'indomani, intanto ero lì in zona, facevo pesca subacquea e mi recuperavo tutti gli artificiali che avevo perso il giorno prima. E magari trovavi anche altri. No, artificiali no, però a volte trovi quei piombi, quelli da scoglio, con la pompetta verde, li conosci? Sì. E quelli ne trovo parecchi, anche perché si vedono, invece gli altri quelli difficilmente, a meno che non vedi una lenza rotta, la segui e poi trovi tutta la paratura. Vabbè, certo. Già li abbiamo di tempo a pescare, dai, già ci vado, già ci tornerò sicuramente, perché ne avevo comprato una canetta piccola con mulinello piccolo tutto per pescare le sette, perché sennò se è troppo pesante da far girare il mulinello, eccetera, se è troppo pesante è brutto, ti fa male il braccio per la fine. Invece perché la devi tenere in mano, quindi ho preso una canetta piccola, un mulinello Shimano di quelli piccolini, e ho messo la lenza nuova e ho trovato un posto di sepe, ho pescato 12 una sera. Poi ho portato degli amici e hanno buttato le sepe sopra al molo dove li ho portati, hanno visto l'ero di seppia e l'indomani ci ha fatto una ventina di persone. Una ventina? Di persone che stavano pescando lì. Ah, come si dice? Hanno cagato il lungo, dai. Allora, hanno visto il nero di seppia, è normale che loro hanno preso tutto il suo seppia. Noi a volte lo usiamo anche per pescare le seppie, le tagliamo a striscioline. Io guarda, ho preso anche i due in una volta, l'ho dovuto prendere col coppo, perché sai cosa faccio? Come le salivi si gonfiavano e si staccavano. Ma io da terra non ho mai pescato, sempre dalla barca, dai, 30-40 metri di profondità, 50, dipende. Anch'io uso una canetta leggera, non mi ricordo che marca sia, forse della Steel Star. C'è un mulinello, penso che sia, non molto piccolo, perché quando peschi a 40-50 metri deve avere anche una certa forza, dai. Poi in genere sei sempre seduto, a volte la canna la appoggi anche al parapetto della barca. A posto della lenza uso il trecciato o multifibra. E basta, poi l'ultimo pezzo è eccellenza. E metto due o tre artificiali, anche quelli costano, ma la sorte, quelli della Yamashita, quelle cose le paghi 10, 11, 12, 13 euro l'una. Ogni volta che ne prendi uno piange. A volte è capitato che ne prendi tutti e tre. Ci sono posti dove si prendono molto, però per dire, se tu vai nella chiesa di Balai, non quella lontana, quella vicina, dove ci sono i fari, se ne pescano bene. Io ho sempre sentito calamari, li hanno sempre presi. Ma è perché la luce, loro vengono attratti dalla luce sicuramente. Noi andiamo verso Castelsanto, riusciamo un quarto d'ora, 20 minuti di motore e poi cerchiamo un po' con lo scandaglio o l'altro, vabbè. E poi buttiamo, cerchiamo di vederli prima. Capito, vabbè, tutto brutto.